apparecchio normale, dai, stavo facendo una prova. Col massimo della potenza dell'apparecchio, però si è fatto a casa. Ma è quello che avevi in macchina? Via. Ecco, lo vedi, a casa, quando luce a casa con la massima potenza viene attaccato, satura, mentre in macchina no. Via, è così, te lo vedo. Bisogna che ammassi fuori dalla radio. Strano, eppure sono uguali lineari, so che ne hai due, quindi va bene, va bene. E Gaia è rimasto giù, Gaia è. Ma poi gli hai telefonato, Andrea, il numero te l'avevo mandato. Sì, il numero me l'hai mandato, no, la devo telefonare. Piuttosto, non so a che ora lo posso telefonare, ma lui sta lavorando, lui cosa fa? O è sempre libero? Lo posso disturbare in qualsiasi momento? Non te lo so dire questo, a volte mi chiama lui a me proprio perché è sempre impegnato, lui, sai, non si ferma mai. Lavori per altri, per lui, per qui, per là, e quindi è sempre, ma a quest'ora lo puoi chiamare, e lo chiami adesso, lui cena sempre tardi, non è un problema, capito, puoi chiamare dopo le 6, dopo quell'ora lì. Ok, infatti durante il giorno già mi è venuto in mente, adesso telefono a Andrea, poi magari sta lavorando adesso e non mi può nemmeno rispondere, perché non lo so. Allora ho pensato, ma il telefono magari in un momento che so per certo che non sta lavorando. E io avevo già il telefono, sì. Può essere che gli telefono più tardi, non lo so. Vediamo, dai. Vediamo che ora chiudiamo, che ore sono? Sono già le 7:30, 7:27 per l'esattezza, dai. Per cui siamo già vicino alla chiusura della radio. E così è. E cosa ci vuoi fare, Ocla? Ciao Gianni, ma poc'anzi sei andato 9:10, però ero attenuato, vero? Mi aspetta, se tu puoi fare quella prova che hai fatto poc'anzi, e io ti do di nuovo il segnale, perché ero attenuato, che non mi ricordavo che avevo attenuato, Gianni. Ehi, aspetta, ma... Prova, perché ti ho dato 9:10, ma ero attenuato, sicché ti puoi immaginare. Per cui, ma ieri si è arrivato con un segnalone qua, 9:30 mi si è arrivato ieri, quando c'erano gli auguri per come si chiama? Bah. Non era buona, un attimo di amnesia ho avuto ieri. C'era la partita, vabbè, c'era un po' di confusione, e stavo facendo gli auguri a Luca, ma ho guardato il segnale, si è arrivato a 9:30 Gianni, ieri, proprio mai arrivato così forte. Lo so, guarda a vedere adesso se va meglio. Adesso sì, 9:25 Gianni, 9:25. Ora mi confondo del baracchino, vai, guarda adesso. Sì, diciamo che la variazione non è molta, siamo appena un po' di più, però la radio ha incominciato a sporcarsi. E così va bene. E così già può andare, dai, già 9:25 così, alla grande. Sì, no, ma ieri proprio di 9:30 pieno, non so cos'è usato, ma ieri 9:30 pieno ieri. Proprio in quelle precise istanti che io sono entrato per un attimo per fare gli auguri a Luca, che poi lui mi ha detto che stavo uscendo male, ma non è che stavo uscendo male, c'era la televisione accesa, c'era, e più il tran tran di altri, non è che stavo uscendo male io, no, non mi capiva perché c'era la televisione accesa, capito? Sentivo la televisione più che altro. Va bene, dai, avanti qua. No, qua è 9:30 pieno, passa qua da 9:20 liscio a 9:30 pieno. Ce l'ho praticamente a vista, capito? Poi adesso l'antenna è molto alta, visto il segnale com'è molto alto. L'antenna è molto alta adesso. 6 metri, quasi 7 metri di pouch adesso. Prima ce n'erano 2 metri, infatti l'ho messo ai tiranti. Prima tiranti non ce n'erano, però per sicurezza, anche se il tubo è molto grosso, sta fatto molto bene, però non so mai. Qualche tirantino li ho messi, ne ho messo 3, i più forti, i 20 più forti, diciamo, Avanti già. È fatto bene, è molto in alto. Il tubo come faceva forte quanto vuoi, ma lo penso, ha pigiato, ha fatto scoperchiare il carro, immagino. No, già va bene, dai. Oh, yeah. E quindi niente, stasera siamo andati a posto. Perché ha preso il colpo di grazia ieri, capito? Io l'ho detto, lo faccio, non è che sto lì a... perché è una cosa che non mi va, capito? Non mi va, quindi ieri ho detto chiaro e tondo, non lo copro più perché so perfettamente chi è, però me lo tengo per me, non l'ho detto a nessuno, non mi interessa. Se lui continua, allora io gli apro la Bibbia davanti a tutti, perciò o l'ha capita, o è meglio che lo capisca. Che figlia una di chi si cuzzurà, di chi manco edo si sai, va, non so, vai giù. Ok, vabbè, cosa vuoi fare? D'altronde, quando uno le gira lo mancantesimo, come si dice in Sassari, fra quale altro, purtroppo ci sono sempre stati questi elementi così imbecilli e ci saranno sempre, tutta la vita. Lasciamole fare. Sì, bene o male ho capito che vuoi dire, ma chiaramente non, tu non hai fatto nome, io non ne faccio nemmeno, però più o meno ho capito cosa intende qua. Poi non lo so, e chi lo sa, quello è sempre da vedere. Ma comunque speriamo che faccia da bravo, che non le venga più in mente fare il cretino. Avanti Gianni. Ho fatto la prova in macchina per vedere come andava il nuovo impianto, se non altro. Tutto ok. Va bene, dai. Purtroppo, guarda, ti dico una cosa, che l'attacco a Cette Sigari non andava bene per il baracchino, il lineare invece non si lo fa tranquillamente. Sì, già, te l'ho spiegato perché, quel baracchino modificato e c'è un assorbimento allucinante. Io ce l'avevo e quando l'avevo messo in macchina anch'io, il primo periodo, giusto così per provarlo, lo provai con l'attacco a Cette Sigari, mi si abbassava tutto lo smitter, capito? E così, c'è un assorbimento allucinante per le modifiche che ha, tutto il sistema eccetera, capito? Anche perché c'è l'alimentazione, il doppio modulatore, c'è un sacco di cose, tutto quel circuito che mettono eccetera, è sovralimentato il baracchino, quindi deve avere una buona alimentazione, è per quello che non te lo facevo andare. E infatti anch'io avevo portato i cavi dalla batteria, perché a me mettevo il VHF che lo usavo a 50 watt in macchina e con la Cette Sigari non faceva una grinza, quello invece mi si abbassava tutta la luce, capite? E così, dai, tranquillo, già lo porta benissimo anche con la Cette Sigari, non c'è problema. Avanti Giulio, io ho un altro passaggio, poi vi lascio, vado a portare il cane, se ci siete, altre due chiacchiere, se no ci sentiamo alle prossime. Avanti Giulio. Io ieri ho riacceso e non c'è nessuno. Ok, d'accordo, qua, d'accordo. Sì, certo. Allora praticamente è l'antenna cosa stai usando, l'antenna lunga stai usando Gianni, quella com'era, la 2000? La Turbo 2001. Quella intendevo, sì. Quella è quella che rende, l'antenna rende quella, è un grillo, l'antennino no, sì, fa la sua parte, il suo lavoro lo fa lo stesso, l'antenna piccola, però non c'è paragone, è tutta un'altra storia. Va benissimo, anch'io mi fa un po', chiudo, anzi faccio uno squillo anche a Andrea, così lo saluto. E facciamo anche questa commissione così telefonica. Avanti qua. Sì, io mi stavo preparando. Ok, dai. Va bene, mi preparo e se ci siete a dopo. Per il momento vi saluto. Ok, ciao Gianni, ciao Giulio, eventuali ascoltoni. A dopo, avanti già. Sì, ciao Flavio, ciao, buona passeggiata. Ieri ho detto, sono entrato e non c'era nessuno. Io ho acceso e stavo parlando con Antonio, sono rimasto sino alle forse sino alle 10, una cosa del genere. Io quando sono andato a casa da te e mezzo ho acceso, non c'era nessuno, allora aspetta, mi sono andato per ieri. Io, vabbè, a quell'ora stiamo cenando. Io e Antonio siamo entrati verso le 9, forse. 9 meno qualcosa, capito? Ah, ecco. Vabbè. Vai tranquillo a portare il camion, però mezz'ora che ci vada. Adesso ancora mi sto rilassando un po'. Se c'è qualcuno altro, Roberto, non è lasciato. Sì, Roberto è andato a mangiare, dai, ok, a te il cambio Giulio, a dopo se coincide, se no ritenetevi salutati, ciao. Ok, ciao qua, ciao, alle prossime. Va bene, dai. Avanti ieri ha dovuto portare Gianni, il cane di Antonello si è fatto male ad una zampa, e l'ha dovuto portare dal dottore, infatti avanti ieri notte. L'ha dovuto portare, pensava che si fosse fatto male veramente, invece no, era solo una piccola, forse ha messo male il piede, non lo so, e questo cane, siccome era una zampa che era stata già operata di quel cane, e lui ha pensato che si abbia fatto qualche frattura, invece no, l'ha portato al dottore, ha fatto niente di grave, gli ha dato la cura e basta. E dunque adesso sta bene, infatti stamattina l'ho sentito, gliel'ho chiesto come sta il cane. No, già sta bene, gli ha dato la cura, il dottore, e basta. Lui si serve da un medico che c'è qua nella zona dove sono io, no? Io so benissimo anche chi è quel medico, per cui va bene così. È bello, è un bel cane, quello d'Antonello è anche veramente un bel cane. Avanti già. Antonello mi sembra che ha 4 anni meno di me, se ricordo bene, 4 o 5 anni meno di me. Oh, il cane! Ah, il cane, questo non lo so. Non lo so questo, penso che abbia 4 anni, 5 anni, non lo so. Non te lo so dire già. Andrà bene. Va bene. Purtroppo succede, io la notte sono dovuto scendere alle 4 di mattina perché la diarrea, ci mettevamo un pugnale tutta la notte passeggiando, ho detto ma cosa c'hai? Dove c'è roba in faccia? Sono dovuto scendere giù e la diarrea può operare. Succede già, succede, come succede alle persone, succede anche agli animali, così, certo, secondo cosa gli ha fatto male, magari gli ha creato uno scompenso nello stomaco e aveva bisogno, aveva necessità di scendere, visto? È stato anche bravo che non ha sporcato lì a casa, perché secondo il cane che trubi magari ti avrebbe sporcato a casa, invece no, ti ha avvisato e tu hai capito che doveva uscire, aveva necessità, è meglio, hai fatto bene a portarlo. Ma me ne sono accorto dalla sera, era il requieto, stava sempre passeggiando, a quell'ora lì dorme sempre, andava, tornava, ho detto ti senti tutti. Cosa c'è in taglio? Qui c'è qualche cosa, mi hanno messo il giubbotto sopra il pigiama, il giubbotto, un paio di scarpe da tele, scorpigiava se si è recuperato, e dopo tutto il giubbotto e mi sono ritornato a me. Certo, hai fatto bene, evidentemente, e dopo, subito dopo, si è ripreso il cane. Sì, gli ho dato la partita di Norwich, poi il giorno dopo gli ho fatto... Ma anche il giorno dopo era un po' così. Gli ho fatto un riso in bianco, con un po' di carne, e si è ripreso, dopo 2 giorni si è ripreso. Ah, meno male, dai. Lo so, purtroppo succede, guarda, secondo anche, io guarda, avevo mangiato l'altro giorno, io sto parlando 7-8 giorni fa, avevo mangiato il tiramisù a pranzo, poi l'ho mangiato anche la notte, non avevo niente, non avevo nessun disturbo, proprio, però durante la notte anche a me mi è venuto un attacco di diarrea. Ma solo quella scarica ho fatto, basta, non è che avevo poi la diarrea continua, no, assolutamente. Io ho pensato, ma probabilmente quello che ho mangiato, perché avevo mangiato anche delle cose che potevano essere anche quelle, e più questo tiramisù, che ripeto, io lo mangio sempre molto volentieri, però forse ne avevo mangiato troppo e magari mi ha fatto male quello, che ne so. Sentivo questo scombussolamento nello stomaco e la necessità di andare in bagno, ma è stato solo un attimo. Una volta scaricato non avevo più nemmeno lo scombussolamento, ho già. E dunque, come succede alle persone, succede anche agli animali, eh? Succede sì. A me mi piace tantissimo, con la panna montata, tanto il pure buono, è più leggero anche, buonissimo, più a misura è uno dei dolci che mi piace di più. Non mangio tanto le torte, sì le mangio, ma non è che mi piace utilizzare, ma ti la messo proprio lì, mamma mia, se me lo lascio me la mangio tutto. Davvero? Davvero, avanti, buonasera. Ciao Gianni, ciao Giulio, allora, sono qua in ascolto, ho detto facevo un lavoro molto veloce. Ma se mi dà, te la posso chiedere una cosa, un segnale di radio, aspetta, che devo... Cos'è? Un segnale di radio vuoi? La radio, vai. Guarda adesso, 1, 2, 3, prova, guarda, com'è la radio? Per me è quasi buona già, quasi buona, 6, 9, quasi 35, ci vuole poco. Beh, saluto anche a Giulio, va. Ok, sono qua, ragazzoni, va. Saluto anche se c'è qualcun altro, a me sto facendo un lavoretto, va. Ok. Sempre bene, zio, Massimiliano. Beh, cosa fai, tanto bene. Mia figlia sta studiando giù insieme alla mamma e io me ne sono al piano di su e mettono a posto un po' qua, là. E io l'altro giorno, la stazione, tutto quanto, vabbè che non si può chiamare stazione, questo, come ha detto Claudio. Vabbè, l'insieme di baracchini, stiamo mettendo a posto tutti i fili, rilegandoli, facendo, perché siamo un po' disordinati, nel senso che vabbè sono dietro i mobili, non si vedono, però mi piace più tenerli bene, dai, tutti legati, tutti fatti bene. Adesso si può chiamare anche quasi stazione, là. E io che intanto saluto Massimiliano, ciao Massimiliano, salutoni, ben entrato. Sì, e beh certo, no, già è bello sistemare sempre la stazione in tutti i modi, a chi piace perché no. No, io ho eliminato tutto, mi sono messo solamente alla radio sopra il comodino e basta, non voglio vedere niente ai miei piedi, nulla di nulla. Ho solo la radio sopra il comodino e basta, tutto lì. Così la notte se devo ascoltare magari in 80 metri mi metto le cuffie e così allungo il braccio e posso anche spazzolare per trovare qualche modulazione sugli 80 metri. Vabbè dai, io devo fare quella telefonata già, che ho annunciato poc'anzi, ci sentiamo. Alle prossime, ti ringrazio per la chiacchierata e grazie anche a Massimiliano che è entrato almeno a salutare. Alle prossime, salutone a tutti e due, io ascolto il vostro finalino e dopo chiudo. Avanti Massimiliano. Sì, ciao Giulio, dai, buona serata e grazie a te, ci sentiamo, vai Gianni. Sì, ciao Giulio, salutami Andrea da parte mia. Capo, quando lo senti, dai, già lo chiamo avanti io, questi ce li siamo lottato, non ci sentiamo. Avanti di nuovo, Massimiliano. Là, un paio di passaggi già, perché se no è un casino qua, e c'ho il salvatore acceso, mi hai capito? E allora fai, dai, si sta facendo roba, non avete problema. Magari c'è Marco Condo, non ascolto, che quello c'ha gli orecchi, porco non entra. Ma, ascoltando stai Marco, che stava mangiando. Comunque funge. Funge. Cavalla. Ma perché ce l'avevo distorta? Sì, magari devi un altro pelino devi abbassare il watt e poi sei a posto. Mi sta attizzando pure a me. Aspetta, Massimiliano. Adesso ho abbassato il watt, guarda come va. Sì, così è buono, va. Così è buono. Cappagatto, dai. E allora lasciamo così e buonanotte, se abbi delle luci. Sei 9.30 così, va. Guarda così. Ora? 9.20. 9.20 così. No, scusa, 9.30 così. Come è possibile diminuito? Beh, ha abbassato un pochino il vatti, mi ha detto, no? Il povero ha abbassato il baracchino. E così mi segna a me già. La buio, qui sono quello che mi segna, ti dico. Guarda così. Hola. Passi 9:20. 9:20, ok. Yes, la porta di fuga, guarda adesso così, alla stanza di fuga delle... Guarda, io posso mettere la cabanetta di fuga, guarda. Sì, 25, ma te ne mangia tutta la radio. Quindi così va bene, così va bene. Sì, anche un pochino più basso, va bene che aumenta la radio. Vai da qua, 1, 2, 3. Così è buono. E allora lascio così. Perché messo in macchina non l'ho fatto, messo invece in casa l'ho fatto, capito, che ti distorce la radio. Ma è... 48 non ce l'è più. Venduto. Ma tu va, e tanto se non lo usavi. No, in casa non lo usavo perché, te l'ho detto perché. Perché mi prendevo gli splatti, non mi risplatta. Allora me l'ho venduto vicino a Udine. E tanto, ma si vedeva. Ho dato 350 euro, ho dato 100 euro per il colore pagato io, vabbè, si abbiglia lui. Già, tanto quando le fai è così, capito? Quando vai a rivenderle non riesci mai a... devi sempre svendere, da. Purtroppo queste radio modificate sono così. Ma non sono rimasti... questo è il magno, basta, non c'è altro. Ma non è più modificato. Il magno. Ah, il magno è modificato. Cosa? Le S9 cioè. No, c'ho l'S9 io, non ero l'S9 80. E te ne fa rispetto di cose, di frequentine? Sì, c'ha qualche stanghettina che è andata. Ma dici che è slitta? Però so che c'è uno che li fa, che li mette a posto. E boh, non te lo so dire. Sto provando a cercarlo su internet e se lo trovo, prima ce n'era a buttarne. Adesso di questi magni non è fuori produzione, capito? Quindi non c'è più. Vabbè, pazienza, lui si è rimasto. E avevano fatto il 980 dopo, ma ne hanno fatto poche serie. Nel 980 hanno fatto una serie solo, mi pare, poi non ne hanno più venduto qua in Italia perlomeno. Poi magari se in America lo vendono ancora, non lo so. Ma in Italia chi faceva da tramite non ne ha più ordinato. E boh, già non so cosa dire. Comunque su internet c'è qualcosa, ma è rosso, capito? Io rosso non lo voglio, lo voglio originale. Però volendo al limite c'è anche il pulsantino, lo elimini, frequenzimetro, rimane il canale, là, capito? E infatti lo so, l'ho sentito che c'è solo un rosso, che li aveva finiti quegli originali blu. Vabbè. È un difetto delle serope qui lui. Addirittura le serope, sai cosa fa? Che si mette a camminare per cui ti metto da solo. Tu lo accendi, però non è camminare da solo. No, già, non me l'aveva mai fatto questo difetto. E poi si ferma, così è. Sì, a me me l'ha fatto il 980, questo difetto qua. E praticamente l'ho spento, poi l'ho riacceso e è ritornato a perfetta normale. Positivo, va. Ok. No, già, non so se c'è qualche di un altro, riprendo qualcuno, ma io mi finisco questo qua, questo lavorettino qua, va. Ok. Lascio acceso, però mi servono le mani. Io va bene, dai. Ok, no, non so se ci sia qualcuno, se no chiudo e ti saluto, va. Avanti se c'è qualcuno sul canale di... Ma guarda, ma Svea, ti saluto, dai, vado a portare giù il cane, non c'è problema. Io trovo sempre qualcosa da fare. Andare, ciao, ci sentiamo, Massimiliano. Ciao, ciao, già, alle prossime, ciao, ciao. Chi è? Chi è avanti? Vado al culo. A me già, a Bisese? Luca bicicletta. Bel bambolino. Bambolina. Ehi, è becca! Mi, appena finito di fare i piatti, che ti fa tutto che oggi non c'è di avere, Sara. Ehi, io sento di mangiare. Adesso, cambiato scrivania, e tu ci fai andare un po'. Gatto F, già di Cinceppani. Ah, cappa. Ah, già Cinceppani. Già andani. Però che lo incendia rimane di questa bacciona era per i denti, avessi acciappava proprio un HF, gli avrei offerto qualcosa, gli avrei offerto sicca che chimbo da che radio del genere, ma ci devo ritornare là, lo sai, e settimana da giammo ve lo dico, perché mai mi ha lasciato il numero di telefono, non so anche se c'è rimasto qualcosa, ma... Siamo a tua ora, io ho preso il caffè. Mi ha preso giù i sangue, mi ha preso, e poi sono andato fuori la guida. Io ci me l'ho detto. Gappa, gappa. Va bene, va bene. Oh, tanto, perché so che... Mi richiedere Antonella Ricci, dove tanto la compagno. E se ne occupa tu di mettere tutto a posto, di staccare l'antenna, eccetera. Non lo so che cosa è rimasto. Gappa, lo devo chiedere a lui. Sì, affanculo, quella bombola devo ritirargli, la ritiro, quell'Agip, non me ne frega niente, li posso pure rubiazzere, e via, cavolo, e c'è portato a casa che cosa, che cioè, andava bene, alimentatori ce n'erano, un po' più facciati gli strumenti. Cappa, e allora lo chiedo a lui. Ci sediamo qua. C'ho due serie diverse, questa è un po' più duretta. Cappa, senta, chissà, mi è rimasta impressa che quel cavolo di antenna strana, quella a cerchio, tipo un cerchietto, là, che rimaneva grande, a tempo che era pesante. Se va via questa cosa è andata la compissuria. Sì, e tu anche nei materiali so, come quella che avevo io. La mia era un bestione, non pensare che era piccola. Gli amatori usano quei tipi di antenne, non è che usano antenne piccoline, no? Capito? Però, non lo so, se mi chiede Antonio lo componio. Se ne era occupato lui di toglierne tutto, di mettere a posto tutto, capito? Quindi non so che cosa le sia rimasto del radio. C'era una scatola, c'era con la scritta Kingwood. Ho detto il giorno che vengo me la guardo. No, ma Maria non ne aveva di questo tipo di radio, forse qualche VHF aveva della Kingwood, non mi ricordo. Tanto me lo devi chiedere a tu. So che era andato lui con anche altre persone. Lui sa esattamente quello che aveva e ce gli è rimasto qualcosa. Cappa, cappa. Allora vediamo, da. Vediamo un po'. Cosa è? Cosa c'è? E tanto mi ha lasciato il numero di telefono. Ci devo ritornare. Allora, se ti ho lasciato il numero di telefono, ci devi ritornare, non c'è problema. Vediamo un po'. E beh, tu da chi sei a Ferraia, per forza l'ho fatto via dal tetto, non essendoci più il marito, cioè, doveva toglierla per forza. E io ti ho fatto la stessa cosa. Da porto tutto, c'è che muoia l'improvviso, poi un casino la smontare tutta quella roba. Beh, la montava, la prendi, la baci ed è tolta. Quello è che abbiamo fatto un bel difficoltà, molta difficoltà, perché non è carrellato, capito? Il tubo scendeva sino a un pezzo, non scendeva di più, quindi un casino abbiamo dovuto fare, ma non eravamo in tre. Ah, la prima volta come ti hai fatto a piazzarti tutto? Sì, a piazzarle già non è facile, ma non è neanche difficile, a svoltarle, un casino. so, è un bel casino, perché magari la difficoltà magari si ossida, non si batte, né giramento di palle. L'ho pensato una persona che è molto più magra, capito, un qualche anno in meno, e quindi è salito e gli ha appoggi lui, ma io a scendermene, abbiamo dovuto abbassare tutto il tubo intero, abbassare un tre con la corda, un casino, però ce l'abbiamo fatta, ma di vita mia abbiamo tanta energia, ma lascia fare. E vabbè, l'hai porci, è da voi. Cosa vuoi fare? E vabbè, anche con la soddisfazione te l'hai tolta. Sì, me l'ho tolta, sì. No, poco ci ho lavorato io, e non è che io avevo sempre di poco, c'è ancora. Anche stamattina ho fatto due chiacchiere in 40 metri con un amico di Cagliari. Non c'è problema. Già qualcosa già ce l'ho per potermi muovere, ma non mi interessa più di tanto. V1 non c'ho più niente, no. Non è una fottinata. Faccio solo 27 e qualche volta così. Mi sto per far andare la radio e niente di che, se no già rimane trovata. Ormai l'incubo 440 è passato, per carità, guarda. Un incubo, cazzo, con la radio, un incubo, tutti i santi giorni, non mi dovevo mai dimenticare che accendo la radio, per carità, basta così, non c'è un dubbio, boh, finito, adesso 140 e 430, queste sono le mie radio, almeno le posso lasciare spente quando voglio, so che quando vado a accenderle funzionano sempre. Beh, fatto bene. Hai fatto bene a bucannire queste cose, e tanto non va a andare pure l'altro in base amatoriale, volendo l'altro, cioè quell'apparecchio che stai usando per esempio, non ci va questo 140, questo ci va e va bene anche, è un bom bene, questo c'ha 150 watt modulati in banda laterale, bella radio, devo staccare il processore quando vado in banda laterale, basta. Modulabilissimo, c'è anche una buona ricezione, vabbè, c'è la colonna esterna, tutto. Sono sopra la caccia con la T250, ce lo trovo. Ne ho trovato uno, però era negli Stati Uniti, capito? E ci vuole troppo portarlo qua, non... già ne vuole da 250 euro, solo della corrattore, qui c'è l'adoganamento, trasporto e tutto, l'ho detto, no, a salute. Ce lo trovo, e... una volta che da fianco quello, o a 140 o a 430, che c'è lo stesso bocchettone d'ingresso, già funziona lo stesso, però comunque non me la futti un tanto, no, sta bene 27 io, non mi interessa una roba da amatoriale, ben vengano da amatori e ben facciano attività da amatori, sono contentissimo, ma a me non me la futti un tanto. Vabbè. Qualche volta già è bello ascoltare pure, cioè magari senti qualcuno, ogni tanto già andava. No, io ce l'ho, me lo aspetto poco fa, stavo ascoltando 80 metri, già c'ho, quello che mi serve già ce l'ho un po', e io a Luglia, mi adesso ero al telefono poco fa con Gianni Capri, stiamo vedendo qualche altro business, l'ho detto cosa mi serve. Adesso si mette in moto, già me lo procura lui, cercando un base di quelli macrovoltici belli, che sempre vinto, c'è da mettere sopra il DAC, perché ho trovato uno di quelli, grandi, belli, ma questo che c'ho bellissimo, questo mi è grande, molto bello, se no mi compro il DAC, certo. No, poi così questo radio lo mandiamo in disarmo e usiamo il baracchino 27, tanto. Esco bene lo stesso, mi sentono tutti, non c'è problema, e questo lo uso come lo spento, se abbia il culo. Sì, vabbè, bisogna trattarli con anche voce a Burwisse. Sì, io sono sempre acceso, io li accendo tutte e tre la mattina, non c'è un problema, lascio una in 40, una in 20, capito? Una in 15, vabbè, non c'è problema. che sono tutti funzionanti, belli, belli, belli, escono molto bene. Escono bene. La Turmiga è una bella bezzolina, c'è una ricezione, anche il Pony è molto, molto selettivo, c'è due altoparlanti. Bello. Vabbè, come vestito un po' in questa radio, beh, quando lo battesci. Sì, beh, c'è ti piangere. Hai fatto bene. Se me ne capita già anche una, già, già me la piglio, qualche vintage vecchio, o qualcosa del genere. Come hai visto quella che ti ho mandato nel Milan? No, è così vecchia, è bella, bella, e funziona bene, qua c'ha 40 canali, con le bande laterali, no, 23 canali, no? Ma sì, è bella, ma c'ha anche i canali sotto e sopra, no? No, 40 canali. Con attaccare con le bande laterali, senza le femme, però è molto più recente rispetto a quelle che ho capito. Cavolo, è bella. Io ho sempre pensato che il canale 45 era un canale, cioè, invece parte da 26, ho visto. Ma i canali 45 sono canali, non mi interessa a me, no? Qualche volta così ci ho fatto qualche spaziata, ma niente che non mi ha fatto niente. Guarda che devo andare su 45, io già sto qua, nel 10, non a 40 moduli, altro non mi interessa cosa fanno gli altri a me. No, non è per quello, no. No, lascia perdere quella questione lì. Io ero convinto che usciva quasi a 28, invece no, dice guarda cosa, è a 26 e qualcosa, è 27.465, no, invece a me mi segna diversamente. Beh, la frequenza del canale 45 è 27.465, poi se te te lo segna diversamente vuol dire che c'è qualche modifica. Capito? È quello che c'ho io, ad esempio l'Albex, metti nel canale 5 e poi tiri su il pulsante e vai sul 45, perché c'ha 40 canali in più. C'è qualcosa di strano, cioè, me l'ho ribattuto. No, non sono riuscito a capire bene. Già guardo e vediamo un po'. No, perché mi ha dato questa stranezza, capito? Non lo so, io canalizzati così non ne ho, che vadano tranne queste PF, VFO, capito? Ad esempio il 140 che c'ha 30 memorie, io la memorizzo sempre dal canale 1 al canale 30, memorizzata normale. Poi c'è 00, prima che inizi l'1, e nello 00 metto sempre il canale 45. Capito? Adesso l'ho tolto il canale 45, ma c'è il canale 40. A volte ci spaziamo, voglio fare qualche prova per non stare a cercarlo. Vado direttamente con VFO memoria. Mentre il 430, il 430 nel VFO c'è la 27 libera con VFO. Nel VFO B invece ci sono le bande materiali. Tutto qua. Vabbè. E quindi com'è? A posto a casa, sì? Mi ho dato una manassara che stava tanto bene oggi, ho pulito, ho fatto i piatti, ho pulito la cucina, ho fatto un po' di cose. E non c'è un cardiame. No, ma ancora c'è vomito, non sta bene. È stanca, gli fa male la schiena. Occhio al peso, mi. Occhio al peso, non la fa mangiare un bel, anche se no guai, mi. E oggi si è mossa un po' di più, è andata dalla zia. E da poi fatti male la china, ci ha fatto 4 piani a piedi perché la zia abita lì. Vabbè, ma certi sforzi non li può fare, non è che deve stare andando e tornando, non si può stare a riposo, i buoni hanno fatto i gosi. Lo cazzo, ma lei già è robusta, cavolo, si, se non si muove un cazzino. Appunto, ho visto la foto, già lei è robusta, più adesso è anche incinta, quindi deve mangiare meno, muoversi un po', camminare, ma non fare sforzi, capito? Sì, sì, si deve andare piano piano, gliel'ho detto. Ava si è dormita gli ossi sul raggente, sono salito qua un attimino, sentito a te, ho detto va, ti faccio 5 minuti, cioè 5 minuti, faccio un po' di relax, almeno lascio un pochettino riposare, dopo magari se ne stare qua. Vabbè. Devo fare spazio qua, mettere la culla, la cosa avvozzo, in qualche maniera mi devo ora arrangiare. Beh certo, mi fai spazio, ti metti la culettina, e state tranquilli lì poi, piano piano, tanto una volta c'è acqua è piccola e mi bacia il dentro. Ho cercato un'altra più grande, capito? Non so come sono attaccati dall'interno. sopra ce l'ha. Guarda quel primo che ti ho mandato, ce l'ha sopra la vettina. Ce l'ha al centro del pomello c'è la vettina e lo avvitti dall'esterno. Però questi che ci vedo devono essere avvittati dall'interno, quindi tu cosa fai? L'appoggi il pomellino, apri il coso, il microfono glielo avvitti da dentro il pomellino. Dovrebbe andare bene lo stesso. Infatti meglio, non ci vuole l'avvitte. Non ci vuole l'avvitte, capito? Non ci vuole lavorare questo come. Ne ho uno, un HM10 della Icom. Faccio un altro vedere come è fatto. Dico io che ci fa dall'interno, è una cosa alta, no? Ma appunto, anziché avvitarlo dall'esterno, lo avviti dall'interno? Scappa. Se è un microfono vecchio, ma se si trova qualcosa, anche il DM1000 è avvitare, è diverso. Cazzo, vero lì, porca miseria, aga. Ma poi mi gioco pure incazzato, anche se è falciato. Perché allora non c'è tutto questo spazio come adesso. Anzi, lo zombura, mi gioco appoggiato. Non è voglio di cui sono in ferro. Questi lì mica ci sono tutti in ferro. E poi quelli che c'ho io sono a Danello, perché sono quelli delle radio VHF, UHF, capito? Anche gli HF sono tutti a Danello. Danello che ci appende in alto. Capiterà. C'è buio, questo guardo se c'è la vita dall'interno, non c'è problema, non ti cambia niente, assolutamente, perché ho vittello dall'esterno, l'ho vitti dall'interno, non cambia niente, però il ferro è in coso, in alluminio, capito? Non ti ci faccia, capisci? Ma magari serve a te, però. No, mi serve, mi sono microfoni che ho in più, non me la fotti nuda. Non si applica a nuda, io non tu. Adesso guarda, aspetta. Stappa, dai. Vediamo un po' se si può adattare, se no. No, già aspetta. Non ti cambia niente, se c'è la vita dall'interno, questo non ti cambia niente. Togli il coperchietto dove c'è attaccato quel pomellino. Anche che avvitarlo dall'esterno, lo avviti dall'interno, che c'è un barugan tu. Non sai che controllo avrei come ha fatto, perché non lo so come ha fatto. Sì. Non cambia niente, no, lo sto guardando. Fai. Ecco un attimo, va a cambiare l'acqua agli olive. E io? Andiamo a pompa. Claudio, buonasera. Come dice che si basso il radio? Non so, aspetta. Adesso va bene. No, si prende un elicottero, un bip e tu non ti scendi. Un secondo, due minuti. Operatore! Ciao tu, aspetta un secondo che spengo il coso. Il decapetico, due minuti. Mi chiedi Antonello qualche che per me se ricorda se è rimasto qualcosa. Adesso va bene, tutto a posto, sì. Allora c'è il dubbio. Vabbè, c'avevo l'hai mettato nel coso. Dei qua di banda, più che altro. Dipendi tu da qua. Zappa, a dove? Io sono stato lì in via Mattino, il fabbriere, per tirare dei voti. E dentro il garage ho visto che c'era roba amatoriale. Devo sapere a chi di chi sto parlando. Cioè, ma tu sai qualcosa? Aspetta un secondo, non ti sto seguendo. Sono in garage, ma in garage da cosa? Da quello che c'è nel sole o cosa? Allora sì, la roba c'è un sacco di. A parte c'è l'apparecchio del cametico addirittura. Non sei un HF, la verità. poi ci sono varie antenne di macchina, ci sono direttive, c'è cavi, c'è cose, c'è un sacco di roba, dipende da quanto vuoi spendere tu, il discorso è quello, hai capito? Kappa, stavo parlando con la signora, io ho detto qualcosa, me la prendevo. Appunto, ti metti d'accordo con lei, tanto lì la maggior parte della roba non vuole più nessuno, quindi cioè, il grosso se la provo via già, e già lo sai anche tu, quindi se la provo via uno di cosa, di sembra di uso, non so, non ricordo dove diavolo sia. E quindi a un certo punto ho lasciato la roba, secondo la testa sua, ci sono anche i metatori, roba del genere, e basta, vabbè, vanno bene, non è che non vanno male. E cappa, sicuramente si è pigliato, si hanno preso un bel po' di roba, perché non mi pare, cioè, conoscendo quella categoria lì, non mi sembra che, magari non me l'ha voluto dire, ma un po' di roba è stata portata via, perché non è possibile, a me, l'avevo capito subito. Io ho capito anch'io, cioè, comunque sia, lui si è portato via un apparato che, vabbè, e tu un alimentatore, dopodiché si è portato via dei cavi, alcune, e dice su 113 eccetera eccetera, vabbè, quello che è. Si è fatto vedere che casa di lui c'aveva 2000 euro da spendere e quello che è, quindi a un certo punto è capito, non a me, è capito agli altri più che altro. Invece non è assolutamente vero, perché c'aveva debiti che non è nessuna idea, ha bruciato un sacco di gente. Vabbè, non è questione che devo dichiarare qui a Baracchino. In realtà c'è qualcosa in tribunale di truffa e cose del genere, capito? Quindi a un certo punto non risponderà, la verità, perché non risponderà, quindi... Vabbè, comunque sia, ciò che è rimasto di là è roba buona, la verità, se ti metti d'accordo con la parola in casa, prenditela, perché sono un altro errore nuovo, quello che mi sembra che è rimasto è qualche apparato, roba del genere, magnetica eccetera eccetera, non è che sia granché, ma comunque sia ritiratelo, se ti piace prendilo, non costa niente. Ho capito, dai. Dice che... ma tu li conosci, no? Sì, li conosco. A me me l'ha presentato, capito? In pratica il primo apparato che io volevo prendere mi è stato bruciato, hai capito? Perché questo qui si è presentato con 12.000 euro e non erano suoi, era una specie di truffa, hai capito? È venuto in contatto e ha fatto di tutto per bruciare l'apparato, prende solo lui. E allora cosa ho fatto io? Furbo, ho preso e fatto il difetto, ti paghi, come si chiama, e se l'ha preso lui, se l'ha preso. Dopo sei mesi che se l'ha comprato, si è accorto, cazzo, che difettava, non c'era verso, cazzo, di togliere il difetto. Quindi a un certo punto ha preso, poi l'ha venduto, hai capito? Io ho fatto finta di essere incappettato, però lui è rimasto trombato per sempre. Da quando lui non è entrato in frequenza per niente, né in 26, te ne in cosa, diceva che era allenatore, cosa del genere. Cioè, ha detto un sacco di stronzate, la verità, e quindi è rimasto trombato. Anche lui non sono andato, e lì sono contento anch'io, la verità. Io non sono mi piaceva veramente, la verità, però non pensavo che fosse un coso, comunque sia, sono contento, veramente sono contento. A un certo punto la sala aspetti, e infatti è successo così. Comunque, ma questa signora ne vende metadone? Perché si prende metadone? Sì, ne ha, a parte antenne, malacchini, metadone ne ha. Oh, auguri, non te l'ho fatti oggi. Ehi, grazie, Cla, grazie mille. Ciao, Luca, auguri a te. Ma metadone non ne ha. Sono apparecchi armatoriali, la verità. E, vabbè, ho un vecchio CB, la verità. Ha rotto le balle il 27, perché gli ha rotto le balle, ma comunque sia, gli apparati ce li aveva, ce li ha lì, uno l'ha venduto, uno a me, poi si è messo in mezzo un coglione di Senori, la verità, il coglione di Senori, perché è un coglione, vabbè, la verità si dica comunque, no, pazienza, l'ha bruciato. Non ho avuto l'impianto, di ripeto l'ha avuto lui, e poi se l'ha venduto l'apparato e ha avuto bruciatura, solo quello, non è pintato il 27, e Marco si prende, Marco entra più con solo l'altro, quindi figurati tu, ha bruciato un sacco di gente, figurati tu. Però se tu non glielo lavi, cioè era meglio. E mica è arrivata lui, scusa, a un certo punto ho detto no, mi hanno telefonato, mi hanno detto lei, non vuoi quella parete? Ho detto no, ho detto non lo voglio, ho detto meglio che se la prenda lui, ho detto è meglio, e se l'ha preso lui, e lui ha avuto le conseguenze, a un certo punto, ma bruciato, arrangiati, come si dice, no? Scusami Antone, se lui te l'ha chiesto tu non lo volevi, cioè cavolo, cioè non riesco a capirla questa cosa. Ma io mica l'ho pagato, scusa, l'ha pagato, non l'ho mica pagato, io non ho pagato manco una lira. Ma alla fine chi ce l'aveva questo apparecchio? L'ha pagato, è stato dato a me, io ho dato a Vittorio, ho detto sistema, te l'ha pagato, ho detto che non esce, c'ha problemi di trasmissione. Vittorio ha preso, ha telefonato a un'altra persona, hai capito? Poi la persona ha telefonato a quell'altro, eccetera, eccetera, e mi ha soffiato, mi ha fatto culo, ho detto, non me ne fotte nulla, a me di un apparecchio HF, gli lo dico da Claudio, non è che ci piango sopra, chi se ne fotte, la verità, non è che devo piangere con la gente, l'avevo preso un apparato, mi ha fatto culo. 300 euro, un alimentatore e un coso, un apparato, neanche 300 euro era la verità, era un affare, quindi va a culo, non ci ho rimesso niente, ci ho rimesso con l'altro, ci ho rimesso, mi ha detto che il 27 è sparito la circolazione, ha fatto un sacco di truffe, ha fatto un sacco di cose, i problemi sono solo, sono i miei, no? E cos'è quello? Bugia. Ma Claudio, ci sei? Io. Ma tu non è metadone? No, l'ho finito lui. Ok, e Marco, cosa tu ne hai? Devo passare al CERT a ritirarlo. Ah, ok. Dai, carica che do una base magnetica. Ascolta, dove tu dentifricio ti serve? Una perivella. Dai, sono entrato per un saluto, oggi è veramente male male, sono crollato letteralmente, dopo mangiato ho crollato e sono a dito dove non posso dire, quindi un saluto a tutti, ero alla TV, ho sentito vocine, mi sono affacciato, ho sentito Antonello che sta ancora recriminando di quell'apparato che gli hanno soffiato. Dai, un saluto festoso a tutti, riprendi Antonio Bombolo, io chiudo Io continuo a dire sempre che se la roba è mia nessuno deve toccarla, può averci pur passato lo demonio, ma è così. Pazienza, bisogna avere qualche volta, come si posso dire, vai avanti che così ti crepano subito. Non mi crepano, se io non ho a te cazzo mi torno l'apparecchio o me lo soffi o cosa cazzo vuoi va, cioè soprattutto se a me mi